Scusi, secondino. Secondino, una cippa di cazzo, superiore. Ma superiore a chi? Superiore a che cosa? Sale. Non si fa educare le persone. È invivibile comunque. Quando uno c'ha paura, è sempre spiato. Non si fa educare le persone. Ho paura. Ieri è venuto a farci visita un ministro. C'è stata una pernacchia e io sono nuovamente in cella di rigore. Paura. Casino. Paura. È invivibile comunque. Trova di essere sempre spiato. Non si fa educare le persone. Ma che fate? Ma no, niente, il regolamento, sono le impronte digitali. Come impronte digitali? Ma che sono, un delinquente? Quando uno c'ha paura. E allora, buongiorno a tutti e tutte, sono le 15 e 5 minuti primi, le 3 e 5, quindi del pomeriggio di questo 13, mercoledì 13 di giugno. E dunque buona trasmissione, buon ascolto a tutti e tutti, ma in particolare buona libertà, in particolare per chi ne è privato o privata, ma anche per tutti gli altri e le altre. Dunque quest'oggi affronteremo un tema di cui ci siamo occupati parecchie volte, però cercheremo di andare ancora più a fondo sentendo delle persone che lavorano proprio nel settore. Chiamarlo settore forse è un po' freddo, lavorano con delle persone, con degli esseri umani che vengono repressi pesantemente dal controllo psichiatrico. Di questo ne abbiamo parlato più volte, sia in occasione di, appunto, quando abbiamo parlato dei sei famigerati OPG, ormai chiamati un po' da tutti dei lager, i manicomi criminali esistenti in questo paese che rinchiudono oltre 1500 persone, e poi a proposito del decreto del governo, quello chiamato in maniera un po' leggera, diciamo così, svuota carceri, in realtà che non ha svuotato un bel niente, che ha fatto una serie di misure pressoché inefficaci e che ha proposto di chiudere questi 6 OPG entro il 31 marzo del prossimo anno, del 2013, per proporre una ridefinizione del meccanismo del controllo psichiatrico custodializzato, cioè in custodia. Quindi persone ancora private della loro libertà, però a livello regionale. E su questo c'è stato abbiamo visto molti commenti, molti dibattiti, chi ha detto qui si espandono invece di chiuderli, i manicomi criminali li moltiplichiamo perché sarebbero piccoli OPG, micro OPG a livello regionale, non superiori a 20-30 persone ciascuno, insomma questo. Poi recentemente, una quindicina di giorni fa, è venuta un'altra botta su questo terreno, il fatto che in commissione degli affari sociali della Camera si è stato così una sorta di colpo di mano, così l'hanno chiamato le agenzie e gli osservatori, in cui un deputato del PDL, Carlo Ciccioli, ha proposto che venisse ripristinato venisse allargato il controllo sanitario, il TSO, il trattamento sanitario obbligatorio che è esistente da tempo e che chiamandolo trattamento sanitario necessario, però prolungato nel tempo, portando da 8 a 15 giorni l'immediatezza, portando la reclusione, in realtà la custodialità, fino a 12 mesi, insomma qualcuno ha urlato riaprono i manicomi. Bene, questo è il quadro che si presenta. Ora questi fatti avvengono così come quando cadono delle pietre in uno stagno. In realtà però il meccanismo del controllo psichiatrico, così come gli altri meccanismi della repressione che seguiamo attentamente, è ovvio che hanno dei momenti in cui balza agli occhi dell'opinione pubblica il fatto nuovo, perché c'è una legge nuova, un procedimento nuovo, un fatto nuovo, però in realtà c'è un andamento verso un aumento della repressione a tutti i livelli. L'abbiamo visto, aumento delle pene, aumento delle restrizioni di libertà tout court, in generale su ogni campo di attività e in particolare sul settore, anche con quello che esploriamo oggi, del controllo psichiatrico. Bene, adesso prendiamoci qualche minuto di sosta per contattare le due persone che dobbiamo sentire, due persone molto esperte nel campo, quindi ci sentiamo tra qualche minuto. Siamo in collegamento con due persone molto molto esperte, molto all'interno di questo lavoro che è un lavoro che appunto vede così un tentativo di frenare il controllo psichiatrico. Abbiamo il professor Giorgio Antonucci, che salutiamo. Buongiorno professore. Buongiorno a tutti. È stato direttore del reparto autogestito del primario del reparto autogestito del manicomio di Imola e poi la sua battaglia contro il controllo psichiatrico. E dall'altra parte abbiamo Maria Rosaria D'Oronzo del Centro Relazioni Umane. Buongiorno, ci senti? Ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Allora, la domanda che faccio a entrambi, poi poi risponderà prima uno e poi l'altro, è questo. Ci sono stati due fatti recentemente, così che mettiamo come fatti di cronaca, però poi il ragionamento che chiedo a voi è poi di fare un po' tutto il che cosa sta succedendo nel campo del controllo psichiatrico. I due fatti sono: uno è la fine dell'anno scorso, il governo nuovo, il governo tecnico ha fatto un decreto che in maniera un po' così allegra, se vogliamo, ha chiamato svuota carceri, in realtà non ha svuotato nulla, e comunque all'interno di questo decreto c'era anche la chiusura degli OPG, dei sei attuali OPG che rinchiudono circa 1500 persone, sono sei in tutta Italia, ma non chiuderli e passare oltre e cambiare casomai impianto, ma diffonderli, cioè fare in modo che in ogni regione se ne costruiscono di più piccoli, dice il decreto, non superiore a 20, a responsabilità della regione, però sempre col sistema custodialista, quindi sempre più. Tanto è vero che alcuni hanno detto, criticando questo provvedimento, sarà la diffusione dei manicomi criminali, non già l'abolizione. Questo è il primo fatto. Il secondo fatto è venuto poco tempo fa, quando alla Commissione Affari Sociali alla Camera un deputato del PDL, Carlo Ciccioli, ha proposto, quindi con una votazione PDL e Lega, un peggioramento dell'attuale situazione, tipo il TSO, si chiamerebbe TSN, quindi la O, l'obbligatorio viene passata a necessaria e si prolungherà, quindi da 8 a 15 giorni, poi la detenzione o comunque la reclusione o comunque la mancanza di libertà durerà fino a 15 giorni, però anche fino a un mese. Ma l'elemento grave è che sembra che possa essere scritto direttamente che la tutela della salute sia prevalente alla tutela della libertà. Questo è un fatto che è un po', probabilmente non volendo, accolto l'essenza del controllo psichiatrico. Allora, questi sono due fatti che hanno colpito l'attenzione di chi così legge i giornali, delle persone non proprio addentro al lavoro, e che però appunto probabilmente c'è qualcosa di peggio. Allora, la prima domanda che faccio al professor Antonucci: qual è l'andamento dalla 180 o dalla 833, da allora, da 30 anni fa e più ad oggi, rispetto al controllo psichiatrico? Cioè, possiamo pensare a una attenuazione di questo meccanismo, oppure al contrario si nota una deriva come su altri terreni della repressione? Dunque, intanto bisogna distinguere quello che si dice da quello che si fa, certo. Perché non c'è nessun rapporto tra le due cose. Quello che si dice non ha nessuna relazione con la realtà. Per esempio il trattamento sanitario obbligatorio. Il trattamento sanitario obbligatorio che è entrato nella nuova legge, che è venuta fuori perché i radicali Compannella avrebbero chiesto l'abolizione dei manicomi, referendum sull'abolizione dei manicomi. Allora il Parlamento, per evitare il referendum, ha fatto una legge affrettata che ora si chiama legge Basaglia, ma non piaceva a Basaglia, come ha detto Basaglia lui stesso, anche in interviste che ci sono tuttora. Certo. Allora questa legge conserva la possibilità di ricoverare una persona con la forza, e allora, conservando questa possibilità, naturalmente mantiene i manicomi, perché il manicomio non è un edificio, il manicomio è un criterio, e il criterio è obbligare persone che sono giudicate negativamente per il loro pensiero, obbligare queste persone a andare in qualche posto e subire con la forza dei trattamenti, dopo essere state squalificate completamente, perché portare via una persona con la forza non è solo un'aggressione e un rapimento, ma è anche in questo caso una squalifica, nel senso che la si porta con la forza in clinica psichiatrica contro la sua volontà, perché si pensa che la sua volontà non conti, cioè perché la si considera una persona incapace di fare delle scelte. E poi si decidono tutti i rapporti sociali. Sì, ora, quando una persona è giudicata incapace di fare delle scelte è rovinata, certo. Nel senso che una persona giudicata incapace di fare delle scelte deve affidarsi ad altri che scelgono al posto suo, ed è la condizione dell'internato in manicomio. E la condizione in particolare dell'internato in manicomio, perché uno che va in carcere, fatto naturalmente negativo per lui, o uno che va in campo di concentramento, anche quello fatto terribile per lui, però non implica che la persona sia considerata incapace di pensare e incapace di decidere, per cui la condizione dell'internato in clinica psichiatrica è peggiore della condizione del carcerato e anche del deportato, perché viene squalificato come persona. Questa è la prima cosa. Ora, se si pensa, e anche questo non lo si dice mai, che questa squalifica è puramente arbitraria, perché è stato dimostrato che è arbitraria. Per esempio, lo psicologo americano, professore di università di nome Rosenan, un giorno sentì parlare Lang, che criticava la psichiatria, allora decise di mandare 8 persone in vari manicomi degli Stati Uniti, e tra queste 8 persone c'era anche lui. Cioè, si presentarono in 8 dicendo semplicemente che avevano sentito qualche voce, e furono tutti e 8 internati e trattenuti con la diagnosi tipica della psichiatria, diagnosi appunto che non ha nessun valore ma serve per mettere dentro, diagnosi di schizofrenia. Cioè, lui racconta questa storia e poi racconta anche che per uscire dal manicomio dovettero far finta di aver accettato di essere malati e di sentirsi in guarigione, altrimenti li trattenevano. Per controprova poi, siccome è successo un grande scandalo negli Stati Uniti, era stato messo in discussione la validità del pensiero psichiatrico, era stato messo in discussione da Rosenam molto più che da Sazze e da altri con i fatti. Allora è successo uno scandalo e tutti erano contro Rosenam. Allora lui decise di fare un'altra esperienza, disse che avrebbe mandato ancora delle persone, va bene, delle persone che avrebbero dovuto dimostrare che uno psichiatra parla di pazzi e non pazzi, ma non sa che cosa dice. E non, invece disse a uno di questi manicomi che gli avrebbe mandato delle persone. Dopo un po' 41 persone in questi manicomi furono mandati indietro perché ritenuti degli sperimentatori, e quando Rosenan dice che non aveva mandato nessuno, per cui loro, credendo che Rosena mandasse delle persone, mandarono indietro di quelli che c'erano andati regolarmente, secondo quello che capita. Sì. Per cui questo è un esperimento che dimostra che il giudizio degli psichiatri non ha nessun fondamento, nel senso che una persona può essere giudicata pazza o non pazza a seconda delle circostanze. Nonostante questo, sembra che le persone strane, siamo Sazzi, io, Rosenam e tutti quelli che hanno messo in discussione questa falsa scienza, nel senso che tutti accettano passivamente queste cose. Continuo per dire delle cose che riguardano l'Italia rapidamente. Ignazio Marino, che sarebbe quello che il senatore, sì, è promotore, no? Sì. Del superamento dei manicomi giudiziari, ha dichiarato, l'ho sentito con le mie orecchie in televisione, che Berlusconi è un matto perché, siccome ha più di 70 anni e gli piacciono le donne, questa è una malattia di mente, è una cretinata, certo. Però lui l'ha dichiarata, no? E figurarsi un po' se questo, cioè, se uno, anzi una persona anziana, desidera ancora di più perché sente il terreno che gli manca sotto i piedi, sì. Non importa se questo è Berlusconi, il discorso è che, ecco, e Berlusconi da parte sua ha dichiarato che sono malati di mente tutti i magistrati, no? Sì, per sì. Cui uno può dire quello che vuole a vanvera, che uno non può dire che una persona c'ha il diabete, no? Nel senso che un altro dice di no, si fanno gli esami e si vede se ce l'ha o non ce l'ha, ma se uno dà di pazzo a qualcuno, può, un altro, per esempio in tribunale, poi concludo, in tribunale quando c'è la questione che poi porta al manicomio giudiziario, naturalmente il difensore il più delle volte sostiene che quello che ha fatto il reato è malato di mente, prende l'esperto per sostenerlo, per evitare il carcere, e invece il pubblico ministro dice che quello è sano di mente per metterlo in carcere. Per cui quando una singola persona in un tribunale con gli esperti in contrapposizione può essere dichiarata per la stessa cosa, per lo stesso reato, nello stesso tempo sana e malata di mente, questo significa che sano e malato di mente non vuol dire nulla. Nonostante questo, la vita di moltissime persone è rovinata da questi giudizi arbitrari. E queste modifiche, ora vengo proprio al nocciolo, a me mi interessano poco, nel senso che io conosco un uomo, un filosofo di 40 anni a Firenze, che io ho difeso, che è stato internato in clinica psichiatrica senza certificati, sono andati di mattina, hanno sfondato l'uscio, l'hanno preso, l'hanno portato via, l'hanno portato in clinica psichiatrica, i certificati li hanno fatti dopo, per cui queste manovre che fanno i parlamentari per facilitare il ricovero sono pura e semplice ipocrisia, perché ci sono delle regole per ricoverare, vengono saltate del tutto, ma spesso vengono, per cui il problema non è questo, il problema è che se non si cambia cultura e si smette di dare di matto alle persone il cui pensiero ci sembra diverso dal nostro, se non si smette di fare queste cose, è inutile dire che cambiano le cose, non è cambiato nulla, Basaglia è diventato il santino che ha abolito i manicomi ci sono sempre, qui a Firenze io prima andavo a San Salvi dove c'era il vecchio manicomio, ora vado a Santa Maria Nova dove c'è il nuovo o uno dei nuovi, non cambia niente, anche se chiudono i manicomi giudiziari, se ne fanno tanti, uno per regione, la struttura è la stessa, i metodi sono gli stessi, le vittime sono le stesse, e ora, per cui non cambia assolutamente niente. Volevo dire, sì, sì. Quando io avevo 15 anni, e poi concludo, quando avevo 15 anni io andavo in giro per Firenze, e allora c'erano poche macchine, e mi sembra che passai con il giallo a un semaforo, invece la guardia municipale pensò che fosse il rosso, prese la bicicletta e mi venne dietro e mi raggiunse. Io avevo 15 anni e la guardia era anziana, quando mi raggiunse mi disse che mi aveva beccato, mi aveva raggiunto e avevo tentato di scappare. Io gli risposi logicamente che non avevo tentato di scappare, non l'avevo visto, perché se tentavo di scappare a 15 anni con lui che ne aveva 50, certamente non mi, non mi raggiungeva. Allora la guardia mi portò in Palazzo Vecchio per mandarmi in manicomio. Oddio. Per fortuna mio padre era un funzionario delle delle industrie elettriche, telefonarono a mio padre era un personaggio a modo suo, e mi lasciarono andare, ma se non ero protetto mi mandavano in manicomio giudiziario. Questo vuol dire che andare o non andare in manicomio giudiziario non significa avere il cervello in un modo o nell'altro, ma dipende dal caso, oltre che dalla prepotenza e dall'aggressività della società in cui siamo, che aggredisce i più deboli, intendendo per più deboli quelli che hanno meno potere. Certo, ce ne sono tanti di questi casi. Adesso lei rimanga in linea, intanto cerchiamo di sentire Maria Rosaria D'Oronzo. D'accordo. Che, tra un attimo. Allora, siamo in collegamento con Maria Rosaria D'Oronzo del Centro delle Relazioni Umane di Bologna. Pronto? Ci senti? Sì. Perfetto. Ciao, eccomi, di nuovo. Grazie. E i telefoni oggi fanno un po' di bizze, vabbè, non dipende da noi, la tecnica non sempre ci aiuta. Allora, dopo aver sentito il professor Antonucci... sì, ecco. Allora, quando l'avete fondato questo Centro di Relazioni Umane a Bologna? Di cosa si occupa? Dunque, il Centro di Relazioni Umane l'abbiamo fondato nel 2009, nel 2008, maggio del 2008. E il nome ci è stato suggerito da un'esperienza che un professore emerito di Bologna, si chiama Edelweiss Scotti, lui negli anni 60, un po' prima di Basaglia, aveva già tentato di portare dignità e umanità in questi posti di reclusione, per cui a Bologna aveva preso dei posti bellissimi su per i Colli, dove fare la Villa Olimpia, come casa di cura per persone dai nervi fragili, lui diceva. Ora, lui Edelweiss Scotti ha fatto tutta una battaglia contro la psichiatria, il suo libro si chiama Contro la psichiatria, e quando Basaglia lo ha incaricato di occuparsi... C'è un disturbo sulla linea, non sappiamo perché questo telefono fa... Ecco, vabbè. Niente, non si riesce a sentire Maria Rosaria, semmai proverò a sentirla più tardi. E allora torniamo a lei, professor Antonucci, poi sentiremo qualche esperienza concreta dal Centro di Relazioni Umane di Bologna. Ecco, una domanda che volevo farle, lei giustamente dice che bisogna fare una battaglia culturale, perché è inutile fare piccole meccanismi. Naturalmente io lo dico venendo da tanti anni, compreso 23 anni di manicomio, certo, di battaglia concreta nelle istituzioni. La battaglia culturale deve derivare dal vedere quando si fanno cose diverse sul serio. Certo. Cioè, io non vengo dalla cultura in generale, io vengo dal manicomio, vengo dal territorio dove ho sempre lavorato. Io ho lavorato dagli anni 63 fino ad ora senza mai fare un ricovero coatto, anzi evitandoli sempre, e quando sono stato nelle istituzioni ho respinto tutti i ricoveri coatti, per cui io vengo dalla pratica, però su questa pratica dico che se non si fanno queste cose è inutile chiacchierare. Ecco, c'è una leggendo i giornali questi giorni, no, a proposito riapertura manicomi e pericolo manicomi, eccetera, molti giornalisti intervistavano quella e dicevano comunque c'è un disagio delle famiglie, perché evidentemente non funzionano quello che avrebbero dovuto funzionare, cioè i centri territoriali di assistenza e di aiuto alle famiglie per il disagio mentale. Ecco, questa cosa è vera, in che misura è vera e come si può ovviare? No, ma il discorso è questo, che in una società dove la soluzione è la soluzione psichiatrica, naturalmente se questa soluzione psichiatrica funziona insomma, funziona in modo incerto, le persone si lamentano. Il fatto che il disagio che esiste perché siamo al mondo, ma il disagio esiste anche per tutti noi. Siamo una società difficile. Certo. Il discorso del disagio, anche questo è un discorso ambiguo, nel senso che dicono disagio per dire che ci vuole la psichiatria. Cioè, i conflitti ci sono. Se c'è un conflitto tra il figlio che si droga e i genitori, questo va risolto. Io ancora posso dire, io ho risolto tantissime situazioni senza la psichiatria, per cui nella società il disagio c'è, le persone attraversano momenti difficili, però il problema non è psichiatrico, il problema è un problema che riguarda gli individui in conflitto con la società o in conflitto con se stessi o semplicemente gli individui che subiscono un sacco di esperienze esperienze gravi e difficili. Per cui l'alternativa è andare, cioè l'alternativa c'è un'alternativa valida, è quella di occuparsi del disagio delle persone senza considerare qualcuno da prendere con la forza e portare dentro. Se si fa queste cose non c'è bisogno di altro. Io potrei fare l'elenco di tantissime persone di cui mi sono occupato, che non sono mai state in clinica psichiatrica, che erano in condizioni difficilissime, però non erano persone incapaci di ragionare, erano persone che trovandosi in situazioni estremamente contraddittorie avevano bisogno magari di un aiuto per orientarsi bene, ma questo non significa che la psichiatria serva. E come al tempo precedente la rivoluzione francese, cioè al tempo cosiddetto delle streghe, no? Non è che c'erano le streghe, certo. C'erano delle persone che facevano delle cose che non erano tanto corrispondenti ai costumi e alla volontà dell'autorità e venivano trattate come streghe. Il problema è lo stesso. E d'altra parte non si fa neanche uno sforzo per capire, per esempio, qui conoscono tutti Andreoli, ma se si parla di Sazza è un nome sconosciuto, no? Nel senso che Sazza ha messo in discussione tutta la psichiatria, già Freud l'aveva fatto, ma non se ne sa niente, si continua a pensare che una persona che è inquieta, una persona che non ce la fa, perché cioè anche ora addirittura si arriva a leggere sul giornale che un disoccupato, ci sono disoccupati che sono suicidati, sì, sì. Anche imprenditori che con la situazione economica, non avendo la possibilità di pagare i crediti, sono suicidati e parlano subito di psichiatria, non c'entra niente, c'è questo disagio, c'è bisogno di questo aiuto. Io mi sono occupato anche di medicina del lavoro a Reggio Emilia, esatto. E il problema era aiutare gli operai a difendersi dallo sfruttamento e dalla vita impossibile, non indicargli soluzioni psicologiche. Certo. Ora si arriva al ridicolo che si mandano gli psicologi nella zona del terremoto, che è una cretinata. Nella zona del terremoto hanno bisogno di aiuti concreti, che ci fa lo psicologo, non serve assolutamente a niente. Si tende a trasformare il disagio della società con tutte le sue ingiustizie in un problema diverso, ed è un problema che non porta a niente, che se si sposta il disagio sociale sul piano psicologico o sul piano psichiatrico non si fa che rovinare le persone senza risolvere i problemi. Infatti. Spero di essere stato chiaro. È stato chiarissimo, come sempre, come i suoi scritti, come la sua esperienza, e noi la ringraziamo e purtroppo volevamo sentirli insieme, però questi telefoni, la tecnica ci tradisce ogni tanto e quindi adesso sentiremo sempre. Volevo per concludere. Dica. Io sono andato col servizio civile come medico, col servizio civile sia al manicomio nel 68 del Belice, nella Sicilia, nella Sicilia occidentale, sia nel manicomio nel terremoto dell'Irpinia. Io appunto ho evitato degli internamenti perché c'erano persone disperate che le prendevano e le buttavano in clinica, così oltre che disperate erano anche squalificate. Io mi ricordo una volta, per dire che vengo dall'esperienza concreta e sono dell'esperienza concreta, nel Belice nel 68, che una sera, siccome io avevo organizzato l'assistenza in un vagone ferroviario alla stazione di Castelvetrano, una sera fui chiamato vicino a una casa e c'era una giovane donna con un bambino di pochi mesi che aveva la febbre e la broncopolmonite. E allora, a parte che io come medico mi interessai della salute del bambino con le medicine e tutto il resto, però lei mi chiese: ora viene la notte e c'era il terremoto che continuava, cosa faccio? Entro in casa perché il bambino ha bisogno del caldo, faceva freddo, oppure sto fuori perché in casa potrebbe caderci tutto sulla testa. E io dovetti decidere insieme a lei se stava fuori o in casa. Siccome il bambino era piccolino, c'aveva la polmonite, gli dissi di entrare in casa sperando che non venissero le scosse. Passai una notte inquieta anch'io perché mi ero preso la responsabilità di dare un consiglio che poteva essere micidiale. Queste sono le cose che si fanno nella realtà. I psichiatri non sanno neanche cosa sia la realtà, prendono delle persone senza conoscere la storia, senza conoscere nulla, gliele portano perché sono inquiete o qualcuno le ha giudicate in modo da essere internate, le mettono dentro, le chiudono in una stanza, le riempiono di farmaci e magari gli fanno anche l'elettroshock, poi non sanno neanche chi sono. Ecco, questa è la differenza tra chi vive nella realtà e chi vive fuori e fa danni. Vi ringrazio. Grazie a lei, professore, ci sentiamo prossimamente. Grazie. Arrivederci. E allora, 15:43, non siamo riusciti, perché appunto qui le due linee non funzionavano, quindi abbiamo dovuto sentire prima il professor Giorgio Antonucci, che ci ha fatto un bel quadro generale, anche proprio molto comprensibile anche per i profani cosiddetti, cioè per gli uomini e le donne che poi subiscono questa aggressione. Adesso passiamo quindi a Maria Rosaria D'Oronzo, che risalutiamo per l'ennesima volta, scusandoci perché prima il rumore del telefono ha annullato completamente la conversazione. Quindi di nuovo buongiorno. Va bene. Allora, quindi eravamo partiti da quando è nato il Centro di Relazioni Umane di Bologna. Riprendiamo da lì. Sì, dunque il Centro di Relazioni Umane fondato da me è del 2008, però il Centro di Relazioni Umane nasce dall'intuizione, dalla volontà di Edelda Scotti, che fu mandato nel 69 da Basaglia a Cividale del Friuli per dirigere quello che è rimasto nella storia il primo reparto psichiatrico nell'ospedale civile. Cotti si portò dietro altri medici, uno psicologo e anche Giorgio Antonucci in questa impresa di liberare le persone da quello che allora veniva chiamata la ospedalizzazione per fare in modo di ricreargli una possibilità di vita sociale, una riappropriazione della vita sociale. Per cui la bella intuizione fu che venne coperta la scritta reparto psichiatrico e sostituita con centro di relazioni umane. Questo primo centro di relazioni umane a Cividale del Friuli poi fu sgombrato da diverse camionette di polizia, carabinieri, ed è stata anche una situazione problematica in quegli anni per la diplomazia tra l'Italia e la Jugoslavia, si credeva alla guerra. Credeva di essere di nuovo in guerra. vabbè. Chiuso perché i degenti, i pazienti erano liberi di andare e venire in reparto, per cui in ospedale, per cui la ragione che allora eravamo sotto il Ministero degli Interni, non ancora nel Ministero della Salute, quindi da Roma partì questa disposizione di chiudere questo reparto perché non rispondeva alle ragioni della repressione, del fatto che le persone dovevano essere rinchiuse là dentro, perché effettivamente era aperto. Quindi fu il primo reparto psichiatrico in un ospedale civile e il primo reparto psichiatrico chiuso dalla forza dell'ordine. Noi abbiamo ripreso, io 10 anni fa, nel 98, ho conosciuto il professor Cotti, aveva lui dei grandi progetti, come anche fare un ambulatorio popolare per tutti quelli che si trovavano nei conflitti sociali, e quindi per non come alternativa alla psichiatria. Poi questo progetto non è stato potuto portato a termine in quanto il professore morì poco dopo, però a me ha entusiasmato questo lavoro di Cotti e di Antonucci, già a Cividale del Friuli, per cui con Antonucci e con gli altri collaboratori abbiamo voluto ricreare questo luogo, questa atmosfera e questa possibilità, dare la possibilità alle persone che si trovano in contrasto, in contraddizione con se stesse oppure in conflitti con gli altri, di non rivolgersi alla psichiatria, di trovare altre domande e possibili soluzioni che non siano quelle psichiatriche della reclusione. Per cui è dal 2008 che noi a Bologna facciamo questo, facciamo il centro di relazioni umane. Ecco, concretamente, portaci un caso, per esempio arriva una persona agitata che casomai ha avuto anche già un percorso psichiatrizzato, diciamo, no? E voi come l'affrontate? Ecco, generalmente arrivano persone che conoscono bene la psichiatria, nel senso che ce l'hanno portata oppure sono andate volontariamente, ci hanno creduto, hanno fatto tutto il protocollo farmacologico, clinico, di trattamenti sanitari più o meno volontari o mascherati, cioè nel senso ti portiamo, vieni con noi con le buone oppure ti portiamo con le cattive, e poi quando ormai hanno perso decenni di vita, arrivano da noi come ultima spiaggia. Quello che noi cerchiamo di fare è di recuperare tutte le relazioni, anche quelle conflittuali, che poi hanno portato a una misura di sequestro come il TSO, per trovare un accordo, perché si tratta di conflitti, di bisogni differenti all'interno della famiglia, all'interno del condominio, all'interno insomma di tutti quegli spazi sociali dove si hanno le relazioni, che nello stato delle cose oggi in Italia e nel mondo risponde alla psichiatria. E quindi noi non abbiamo nessun approccio clinico, psichiatrico, alle faccende che riguardano invece le relazioni con se stessi e con gli altri. Certo. Senti, diceva prima infatti il professor Antonucci che, per esempio, il caso che in questi ultimi tempi sta sulle cronache dei giornali, molti lavoratori, imprenditori, piccoli, artigiani e altro si vedono arrivare, che ne so, o la grossa cartella di Equitalia che non possono pagare, oppure gli blocca i pagamenti la banca e si suicidano. È chiaro che lì il problema è da ricercare nel problema economico, non tanto in quello psichiatrico, e più o meno così sarebbe dappertutto, no? Centrare il problema. Ecco, c'è un elemento che per esempio io vedo, perché conosco abbastanza il problema del carcere. Nel carcere, dicono alcuni dati che non sono nemmeno ufficiali, però sono abbastanza reali, l'uso enorme degli psicofarmaci in quest'ultimo periodo va nel mentre il carcere è diventato questa grossa discarica sociale ancor più di prima, il sovraffollamento è arrivato a livelli inaccettabili, le condizioni dentro sono pazzesche, e l'amministrazione carceraria in invece di affrontare i problemi reali del carcere, che già è un luogo di sofferenza aumentato da questi disagi, e propone appunto gli psicofarmaci. I dati sono spaventosi, pare che più di uno su tre tra i detenuti usi i psicofarmaci. Ecco, questo dato che porta a una psichiatrizzazione diciamo di massa dei soggetti che realmente sono in condizioni di sofferenza, come la, diciamo, la vedi questa situazione? Sì, purtroppo la situazione è anche peggiore di questi dati, nel senso che io ho testimonianze di detenuti che vengono messi in isolamento perché non vogliono prendere gli psicofarmaci. Questo ci dice anche l'uso, cioè che cosa è veramente lo psicofarmaco, che innanzitutto non cura e seda, per cui anche chi non è in condizione carceraria, muraria, dovrebbe conoscere queste informazioni, il medico dovrebbe dare queste informazioni, nessun psicofarmaco cura, lo psicofarmaco serve per spegnere il cervello, le emozioni e quindi di seguito la vitalità delle persone. E questo succede, quello che succede in carcere, l'hai spiegato benissimo anche tu, ma poi succede anche negli ospizi e poi succede anche nei CIE, quindi succede in tutti quei luoghi in cui le persone devono essere custodite, non hanno nessun significato, dove la vita deve essere controllata e se possibile anche cancellata. Certo. Questo succede non solo nelle istituzioni totali non proprio mediche, questo succede anche negli stessi ospedali, dove si presume che si conoscano gli effetti dei farmaci e quindi anche i dosaggi e la prescrizione, però ricordiamo, non l'ultimo purtroppo, però è quello che è più conosciuto dalle cronache italiane, Mastro Giovanni è morto in un manicomio legato al letto per 84 ore, dove ci sono tutte le garanzie dei protocolli sia sull'uso del farmaco che sulla contenzione, che è sempre una tortura, e quindi questi protocolli non servono assolutamente a nulla. Certo. Senti, una domanda, quanti ve ne sono nel territorio nazionale di centri analoghi a quello vostro di relazioni umane? Si stanno diffondendo oppure al contrario c'è una poca diciamo attività su questo terreno? Che io sappia, seguendo anche le cose da vicino, non ce n'è nessuno, nel senso che ci sono diverse persone, come il professor Lo Iacono a Foggia, che si occupa in modo abbastanza che ha tutta la nostra approvazione per una vita senza psicofarmaci, più o meno il loro slogan è di questo tipo, ci sono delle realtà come quelle dell'Associazione Penelope a Catania e a Messina che fanno un'alternativa alla psichiatria, e tra l'altro loro sono molto attivi a svuotare il manicomio giudiziario di Barcellona, un'attività così come la intendiamo noi, cioè di trovare quando è possibile una sussistenza degli affetti e delle relazioni, a me non risulta. Infatti. Senti, un'altra domanda volevo farti è questa. Praticamente sembra che si sta tornando come approccio al problema, al di là delle modifiche legislative che pure sono gravi, perché questa che si sta discutendo in Commissione Affari Sociali sembra abbastanza grave. Comunque è proprio un approccio mentale, culturale. sembra che si stia tornando. Io ricordo quando il letto di contenzione, per esempio, veniva usato spesso nelle carceri quando c'erano delle rivolte, cioè il rivoltoso o comunque quelli che guidavano la rivolta venivano così bollati come persone esagitate, e quindi invece di capire che c'era un problema reale, anche delle rivendicazioni molto concrete alla base di quella rivolta e la segnalazione del malessere, c'era appunto il fatto di questi sono agitati, li mettiamo a letto di contenzione. Quindi si torna un po' a quel problema senza vedere il problema reale, no? Come diceva il professore, di una singola persona o di un collettivo di persone, si va ad operare, no? Si dice questo è agitato mentalmente, quindi va sedato. Se si fa con lo psicofarmaco, con l'elettroshock, cambia soltanto lo strumento, però penso che sia abbastanza analogo. Ecco, qual è la tendenza? Cioè una domanda finale. In tutti gli altri settori, per esempio le misure alternative in carcere che diminuiscono sempre di più, il sovraffollamento che aumenta, le condanne per reati che fino a qualche anno fa erano limitati a pochi mesi o a pochi anni, adesso aumentano sempre di più. Cioè questa repressione che diventa sempre più pesante e anche invasiva. Ecco, dentro questa tendenza c'è anche l'invasività del controllo psichiatrico? Sì, sempre di più lo vediamo ad esempio nella scuola con tutti questi test, che è giusto chiamarli piuttosto quiz psicologici, anzi il mercato della psichiatria, dello psichiatra si è allargato, ormai prende da quando nasciamo fino all'ospizio. Sicuramente vediamo, si possono anche vedere in internet o comunque sui giornali, il giro d'affari delle case farmaceutiche. Anche il medico di base di fronte anche a un dolore come la sciatica può prescrivere delle benzodiazepine. Sicuramente è una situazione che si sta allargando e che prende tutti i momenti della nostra vita da quando siamo infanti. Con il nuovo DSM, che è il manuale diagnostico delle categorie psichiatriche, che sarà pubblicato nel 2013 o nel 2014, comunque a presto, sì. Le patologie, quelle che chiamano patologie psichiatriche, sono più che raddoppiate, però se teniamo conto che è un manuale dei primi anni 40 che conteneva una ventina di patologie, adesso siamo arrivati a 800 e con questo nuovo che sta per uscire saremo sulle 2000, allora non ci resta nessun spazio per il nostro gioia, dolore, per il nostro imbarazzo, per una nostra rivendicazione, perché chiunque può dire che siamo in balia di una qualche follia. Follia, certo. E certo, purtroppo è preoccupante, però visto che avviene su tutti i terreni questa sorta di aggressione alla libertà individuale, è chiaro che la battaglia si dovrebbe fare su ogni settore, però a livello un po' più generale, perché questa deriva delle società pare che sia proprio questa, di una aggressione appunto alla libertà, di una restrizione degli spazi, e che è molto, tutto ciò è molto preoccupante, al di là della definizione, poi si definiscono democrazie o dittature, però in fondo l'assenza di libertà è sempre più marcata, e questo è un dato molto preoccupante, soprattutto sul fatto del controllo psichiatrico, che è un fatto nemmeno tanto voglio dire, rispetto a cui tutti poi alzano le braccia, perché no, una madre quando si dice che il proprio bambino c'ha dei problemi, e così anche no, tutti, perché si sentono un'autorità che gli impone delle scelte, insomma c'è questa. Dovremmo studiare di più, informarci di più, certo. Perché chi conosce la psichiatria, la storia della psichiatria non può certamente dare ascolto a un neuropsichiatra che vuole dare psicofarmaci a un bambino oppure neanche a un adulto e ancora di più neanche a una persona anziana per diverse ragioni. Il bambino si deve ancora formare, l'adulto è in pieno della sua potenzialità di vita, l'anziano deve preservare le capacità che ancora residue, certo, che ancora ha, certo. Esatto. Io ti ringrazio Maria Rosaria e purtroppo il tempo è finito, però il tema è molto interessante, quindi ci sentiremo ancora successivamente, perché è un terreno su cui bisogna appunto fare conoscenza, sfatare i luoghi comuni, i pregiudizi, cioè c'è molto lavoro da fare per così, da mettere in grado le persone di difendersi di fronte a questa aggressione e di andare avanti per cercare di fare delle modifiche reali, sostanziali alla situazione pesante che viviamo. Sì, è per liberarci tutti insieme. Infatti, è vero, è proprio questo. Grazie Maria Rosaria, buon lavoro e ci sentiamo presto. Arrivederci, ciao. Ciao, ciao.